Cari amiche, cari amici, benvenuti a Bruxellando, Radio Alma, Mari D, anche questa sera, con una puntata ricchissima, con due ospiti in studio, quindi manteniamo la promessa di portarvi almeno un ospite, ma questa sera addirittura due, quindi sono estremamente felice e contenta, entrambi basati a Bruxelles, una scrittrice che è stata già nostra ospite, un musicista, quindi sono contenta perché riusciamo anche a parlare di musica, di chi fa musica anche a Bruxelles, ma avremo modo di scoprire l'uno e l'altro nel corso della trasmissione. Saluto Dani MRG. Buona serata a tutti. E saluto anche Fiordaliso, che probabilmente riuscirà a raggiungerci, mentre George non è con noi questa sera. Quindi, come annunciato, due ospiti. Partirei con la prima ospite di questa sera, che è ormai penso un'abitué di Bruxellando, perché è stata con noi già varie volte. L'anno scorso mi disse: ho bisogno ancora di scrivere, ti chiamerò io. Infatti così è stato. Torna probabilmente dopo due edizioni di Bruxellando con tre raccolte, una più bella dell'altro. Veramente, quando avete modo di leggerle capirete che non è solo poesia, ma è qualcosa di più. E quindi cambio anche lingua, perché passiamo dall'italiano al francese. E moi je souhaite le bienvenue à Monique Thomasetito. Monique, benvenue a Bruxellando e a Radio Alma. Bonjour. Alors, comme je venais de dire en italien, je le répète aussi en français. Monique a été avec nous déjà plusieurs fois. Monique est un artiste en fait polyvalente, parce que elle écrit soit des poésies, mais elle aussi peintre. Donc, elle arrive à mélanger, je pense aussi avec ses poésies, quand même des images fascinantes avec ces mots. Donc Monique, on s'est vu, je pense, la dernière fois il y a des ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que je continue ce que j'ai toujours fait, à savoir m'exprimer actuellement par l'écriture. Mais je l'ai déjà dit lors de précédentes interviews, j'ai toujours dessiné et écrit. J'ai toujours écrit et dessiné. Et donc, je ne peins plus depuis de nombreuses années, depuis 2000, l'an 2000 exactement. Écrivant de plus en plus, peignant de moins en moins, j'en suis arrivée à ne plus peindre du tout et à écrire, uniquement écrire. Et ça, c'est un hommage, parce que je peux vous assurer que si on regarde, par exemple, mes intimismes, mais l'angle ouvert à des bâtons, je peux vous assurer qu'il y a quand même aussi de la poésie dans tes tout petits tableaux qui sont représentés ici. Donc, ce soir, on parle des trois dernières œuvres qui sont entre musique, poésie, mes intimismes, mélange ouvert à des bâtons. Il y a un mélange entre des raffigurations, comment on peut les appeler avec un mot correct en français, des dessins. Ce sont des dessins, voilà, et des tableaux à l'huile reproduits. Sur le thème de la fenêtre. Qui en Belgique est très important, hein, parce que le rôle de la fenêtre en Belgique n'est pas le même de celui en Italie. Donc peut-être là, oui, on pourrait faire aussi une analyse. Mmh. Et enfin, Intuition, qui est un peu, en fait, qui fait le point, je pense, des extraits de ton site, de ton journal, de tes lettres, de tes essais et de tes inédits. Donc je commencerai avec mes intimismes, si tu es d'accord. D'accord. Et pourquoi la nécessité alors de parler de la fenêtre? Qu'est-ce que représente pour toi la fenêtre comme métaphore? Voilà. Je ne me suis pas posé de questions en peignant des fenêtres. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours aimé les tableaux où la fenêtre intervient. Vermeer de Delft, etc. C'est Rembrandt aussi. Ces tableaux m'ont toujours parlé. Donc, à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais peint pas mal de tableaux, justement, mettant en scène une fenêtre, l'intérieur et l'extérieur. Donc, cet échange entre l'intérieur et l'intérieur. Et il y avait aussi longtemps que j'avais envie de reproduire ces tableaux-là, qui sont des tableaux peints d'après nature, sauf parfois des éléments imaginés, ajoutés. Et dans ce livre, ce livre est particulièrement cher parce que les tableaux que j'y ai reproduits, je les ai réalisés durant une période importante de ma vie, c'est-à-dire après la naissance de ma fille Véronique jusqu'à ses 17 ans lorsque nous avons déménagé. Donc 17 années passées dans une grande maison qui me permettait d'avoir un grand atelier très très clair. Et voilà, donc il y a un aspect sentimental, familial, d'autant plus que j'y ai reproduit des œuvres plastiques de ma fille quand elle était enfant. Voilà, donc c'est un livre intimiste, en effet. D'autre part, c'était l'occasion de chercher dans mes livres publiés des extraits où je parle de fenêtres. Et là, bien entendu, beaucoup de ces livres, de ces extraits me sont d'emblée revenus en mémoire, mais je sentais bien que d'autres extraits, je ne les retrouverais pas en me basant sur ma seule mémoire. Donc je me suis aidée de mon ordinateur en tapant sur le coin supérieur droit le nom « fenêtre ». Sont apparus alors des fichiers de mes livres que j'ai pu ouvrir et en tapant sur « rechercher » le mot « fenêtre », je suis tombée tout de suite sur les extraits que je souhaitais reproduire. Alors voilà, il y en a certainement encore d'autres dans mes livres, mais enfin je pense que là, c'est l'essentiel. Dans l'un, par exemple, dans un livre, par exemple, je parle d'une expérience non pas imaginée, mais vécue réellement, c'est-à-dire un jour, assise dans mon bureau, avec la fenêtre ouverte et mon ordinateur éteint, j'écoutais la rumeur de la ville qui pénétrait par ma fenêtre ouverte. Et alors là, j'ai eu envie d'en écrire une sorte de symphonie, avec des mots, pas avec des notes de musique, mais avec des mots. Alors voilà, au lieu de faire un brouillon sur papier, j'ai allumé mon ordinateur, me disant, voilà, je vais, comme on peint sur le motif et d'après nature, je vais écrire sur le motif d'après nature ce que j'entends, en quelque sorte. Mais mon ordinateur de l'époque était brouillant, ce n'était pas, c'était l'écran cathodique, ce n'était pas les écrans plats actuels et silencieux. Cet ordinateur-là, à l'époque, faisait un léger ronronnement, de sorte qu'il a occulté cette rumeur entrée de la ville qui entrait par ma fenêtre. Donc c'est comme un peintre qui aurait voulu, qui voudrait peindre d'après nature, et tout à coup, tomberait devant cette nature un rideau qui lui cache cette nature. Donc, alors voilà, alors ce peintre, ou cet écrivain en l'occurrence, n'avait plus qu'une chose à faire, c'était écrire de mémoire, en quelque sorte, ce que j'avais entendu. Et alors, c'est le début donc d'un conte de l'âme, du premier de l'âme dénouée, un recueil de contes et pensées. Et je pense à celui-là parce qu'il y a la dimension sonore. J'en parle ailleurs dans mes livres, mais enfin, cette expérience-là avait été assez particulière. Voilà. Il y a donc soit des poèmes, soit des pensées en fait liées au thème de la fenêtre, mais il y avait surtout un thème qui m'avait frappé parce qu'il y a une réflexion sur toi comme artiste, à la fois peintre et écrivain. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur ça avant de passer aux autres livres? Oui. Sur quoi en particulier dans sur ce livre là? Attends, parce que j'étais en train de, je me suis perdue dans les photos, hein, non, mais j'avais en tête, en fait, c'est que moi j'avais aimé les plus. Attendez, hein. Désolée, hein. Ça c'est Il bello della diretta. perché lo avevo sotto praticamente a portata di mano, ma giustamente adesso non lo trovo più. Penso che questo, che è un inedito, Finestre scritte. Attends, là tu me parles en italien et pardon, malheureusement. Voilà, tout à fait raison, mes excuses. Alors, je pensais à ça, Fenêtre écrite, et je pense que c'était aussi un édit, quelque chose de tout à fait nouveau, non? C'est un inédit. C'est celui-là, ou je me trompe, j'ai pas bien compris. Mais voilà, justement, donc, Fenêtres écrites, voilà. Donc, dans ce livre, il y a d'abord les fenêtres peintes. Ensuite, les fenêtres écrites qui reproduit, chapitre qui reproduit des extraits de mes livres où je parle de fenêtres. Et voilà, on arrive fenêtres alors, je pense. Écrites. Et là, sur cette page-là, je note les livres dont j'ai extrait des passages sur la fenêtre. Oui, et parce alors, qu'il y avait fenêtre à ligne, voilà. Voilà. Finalement, je trouve voilà. Ce que je voulais et dire. Et alors, voilà, donc il y a fenêtre à ligne. Fenêtre peinte, fenêtre écrite et publiée en livre, sur papier. Et les fenêtres en ligne qui sont aussi des écrits, mais mises en ligne sur mon site. Alors là, voilà, justement, dans les fenêtres en ligne, les extraits que j'ai choisis, les extraits que j'ai choisis sur mon site ne parlent pas nécessairement de fenêtres, mais je l'ai appelé fenêtres en ligne parce que pour moi un site c'est une fenêtre et c'est une fenêtre où l'on voit effectivement, enfin on ne les voit pas mais on les devine, les lecteurs de l'autre côté de l'écran, si je puis dire, qui lisent ce que je mets en ligne. Enfin, qui le liront une fois que ce sera mis en ligne, évidemment. Et alors, finalement, j'ai trouvé le passage que je voulais, oui. Sur lequel je voulais une réflexion de ta part, que oui. C'est la fenêtre sur la condition d'artiste. Ah oui, la condition artiste. Voilà. Excusez-moi. Qui n'est pas facile. Oui. Donc, parce que tu dis des choses intéressantes. Dans la mesure où je n'ai pas de profession comme celle de médecin, enseignant, journaliste ou autre, il m'est peu à peu, insidieusement, dirais-je, devenu impéré de voir accepter mes métiers et mérites de peintre, d'écrivain. Oui, oui. Donc c'est aussi une exaltation du rôle. Ah oui, mais c'est un problème qui n'est pas particulièrement lié à la condition féminine. Je crois qu'en... C'est vrai que un peintre ou un écrivain aura, je pense, peut-être plus de facilité d'être reconnu si, par ailleurs, il ou elle a un travail, une responsabilité dans un monde, bah, par exemple, journalistique ou professeur de français. Bon, d'emblée, et alors là, si en plus on s'occupe d'ateliers d'écriture, alors là, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Je pense, enfin, les quelques exemples que j'ai vus autour de moi me permettent de parler comme ça. Mais disons que dans la mesure où je ne fais que ça, m'exprimer et où j'y passe mes journées, et bien c'est vrai qu'il y a ce besoin de partager ce qu'on fait, donc en publiant, et le besoin d'avoir des échos. C'est la raison pour laquelle, Marie-Léna, je te suis très reconnaissante de m'inviter ici. Bah, mais nous aussi, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Passons maintenant donc à Intuition, qui en fait requiert un peu tes extraits les plus importants de ton site, ton journal, tes lettres et d'autres. Moi, j'étais frappée par Mon ami le dictionnaire. Ah oui, oui. Parce qu'il y a presque personne maintenant qui consulte les dictionnaires en Italie. Je ne sais pas en Belgique, mais au moins en Italie, les dernières statistiques sont très mauvaises en ce qui concerne les dictionnaires. C'est très important le dictionnaire. Et c'est important aussi, je dirais, pour moi personnellement, dans la mesure où je n'ai pas fait d'études de latin, mais gréco-latine, ce que j'aurais voulu faire, je fais les modernes, mais là on me l'a imposé, enfin bref, je ferme la parenthèse. Donc, il est très important pour moi de consulter le dictionnaire pour voir l'étymologie de certains mots. Entre autres, aussi pour vérifier une définition, surtout lorsqu'un mot a plusieurs définitions. Et donc, je vais consulter cet ami cet ami d'enfance, parce que je sais que je me rappelle lorsque mon père, lorsque j'avais 10-11 ans, et que je lui demandais, papa, qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel mot, il me disait toujours, regarde au dictionnaire. Je ne sais pas si c'était de sa part de la paresse, parce qu'il était en train de faire autre chose, ou si c'était pour me donner le goût de consulter le dictionnaire, lui qui était aussi amoureux de l'orthographe. Toujours est-il que c'est un service qu'il m'a rendu. Voilà. Ça, je peux l'imaginer. Alors, je reviens à Entre Musique, qui c'est un recueil en fait de poésie. Si tu devrais penser à un mot qui puisse exprimer le contenu de Entre Musique, quel mot viendrait-il à l'esprit? Ah, ben, peut-être, ça sera plus qu'un mot. Je dirais regret. Et là, je complète. Quel regret, regret de n'avoir pas pu apprendre la musique. Alors, voilà, je compense. Je ne dis pas que ma poésie compense. Je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que depuis des années, je pense que j'aurais dû... pouvoir apprendre en particulier le piano, mais voilà, on est dans telle famille et non pas dans une autre. Ça me rappelle Saint John Perse. Saint John Perse, quand il était enfant, aurait voulu apprendre le violon, et il avait appris le violon au début. Mais comme il s'y était très attaché au grand bonheur de sa mère, son père, qui trouvait que ce n'était pas viril, et qui le destinait à une carrière plus masculine, d'ailleurs après il a fait de la diplomatie, lui a interdit d'apprendre le violon. Ce que je raconte ici, c'est une psychanalyste, Gilberte Aigris, qui l'a écrit dans son livre sur Saint John Perse, justement. Et là, elle raconte, si je me souviens bien, que le petit Saint John Perse, qui s'appelait en fait Alexis Léger Léger, donc le petit Alexis, était si malheureux de ne plus pouvoir jouer du violon, qu'il s'est confectionné un violon en bois ou en carton, je ne sais plus, sur lequel il jouait et il imaginait de la musique. Alors, est-ce pour cela que sa poésie très ample est musicale? Là, c'est possible. C'est la question que cette dame que je viens de citer pose dans ce livre. Donc, il peut y avoir chez moi peut-être un regret, sauf que moi, je n'ai jamais appris. Ah si, j'ai une tante paternelle quand j'avais 6 ans, au moins ça, qui m'a appris de ré mi fa sol la si do. Enfin bon, quelques petites bribes que je n'ai jamais oubliées. Mais il se fait que la famille a évolué de telle sorte que nous ne l'avons plus revue, cette tante pianiste. Et donc, c'est un regret, en effet. Donc, c'est un peu du même ordre que Alexis Léger-Léger, alias Saint-Jean-Perse. Monique, malheureusement, le temps à la radio, tu sais, passe très vite. Est-ce que tu es déjà en train de travailler autre chose? Tu penses Mais travailler voilà. sur d'autres concepts? Mais c'est-à-dire qu'en fait, mon tome Intuition, qui a 306 pages, je viens d'en faire un deuxième. Ah, déjà. Qui a aussi 306 pages, et il y en aura un troisième. Parce que, alors là... Oui, mais non, mais j'ai des milliers de pages de mon journal. Alors voilà, donc c'est un peu à part, hein. En fait, tu dis oui. aussi, ces livres-ci pourraient avoir au moins le quintuple de pages. Ah oui. Donc là. Oui. Monique, on est en conclusion. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose que tu voudrais encore dire aux écouteurs de Bruxelles et de Radio Alma ce soir? Je dirais simplement, lisez. Je voudrais les encourager à lire. Je ne dirais pas mes livres. Je ne vais pas me mettre en avant, mais lisez tout simplement. Alors, je vous rappelle Mes intimismes de Monique Tomasetti, Entre musique, et l'idée en fait ont été réalisées par la maison d'édition Méo Édition, et en fait j'en profite aussi pour remercier Gérard Adam, qui est toujours enthousiaste de nos activités, et Intuition, qui par contre a été publiée par Monoveille, dans ce sont des auto-éditions, hein, parce que je ne peux pas tout publier chez Meio, donc Meio, Gérard Adam est l'éditeur, et moi je suis éditrice en poésie. Je m'occupe de la partie poésie. Je viens d'apprendre une autre chose ce soir, donc on apprend toujours quelque chose. Monique, on te souhaite encore all the best and lots more, comme on dit les Anglais, et j'espère à très bientôt. Merci. Mari D ai microfoni di Bruxellando a Radio Alma, come annunciato in inizio di in apertura di trasmissione, abbiamo il secondo ospite che era già con noi dalle 20, Nicola Lancerotti. Nicola, benvenuto a Bruxellando. Grazie, buonasera. Lo so che sembra scontato e già vedo Nicola con un mezzo sorriso, però io vorrei sapere, no? E poi parleremo anche della biografia di Nicola, ma come si fa ad amare la musica e l'ingegneria aerospaziale? Sono curiosa, eh? L'ingegneria aerospaziale è talmente noiosa che a un certo punto uno ha bisogno di uscire dalla realtà in cui si trova e quindi ha bisogno di fare altro. Insomma. Quindi la scelta artistica è una cosa, è la prima direzione che uno prende. Però ti sei laureato, quindi... Sì, ce l'ho fatta. Quindi modo. Vuol dire che forse è tanto noiosa. Dimentichiamo i particolari, i dettagli. Come nasce allora la passione per la musica? Partiamo da lì. Da sempre in realtà, perché anche quando ero ragazzino mi ricordo registrarmi a cantare sui pezzi dei Pearl Jam quando avevo 14-15 anni, per cui era... Ho sempre voluto suonare in realtà. E, un po' mi riallaccio a quello che diceva Monique, che poi quando hai voglia di fare qualcosa e non te lo permettono in casa, in realtà ti resta la voglia dentro e te la porti dietro fino a quando a un certo punto ti metti via quei 4 soldi per comprarti la chitarra e ti metti a prendere la chitarra e vai in spiaggia a fare Battisti male, però comunque lo fai, insomma, perché ti piace. George, che non è qui questa sera, ma che saluto ancora nuovamente, avrebbe detto che è nei nostri limiti che poi scopriamo le nostre grandi passioni, e cioè che proprio quando ci impediscono di fare delle cose arriviamo a un punto che esplodiamo e necessariamente quelle passioni emergono fino a diventare poi le protagoniste delle nostre attività. Tu sei nato a Padova, però la tua carriera musicale, se ho ben capito, nasce soprattutto a Pisa, in Toscana. Sì, perché io ero lì per l'università, avendo scelto appunto l'ingegneria aerospaziale, dovevo andare in alcuni luoghi particolari, ho dovuto andare a Pisa, sono stato a Pisa, e lì sono entrato in contatto con una scuola di musica e diciamo ho cominciato, dovevo far chitarra, poi però mi sono incrociato, mi sono scontrato contro un contrabbasso. Come mai la musica jazz allora tra le tante possibilità? Perché la stavo ascoltando, l'avevo scoperta da un paio d'anni e l'ho trovata, non lo so, entusiasmante. Poi ascoltavo i grandi, già, ascoltavo Mingus, ascoltavo Miles, ascoltavo Monk, e quindi ascoltavo, cioè ho avuto dei punti di riferimento abbastanza determinanti in questo senso. E Mingus è stato la grande scoperta. Quando lo ascolti dici esiste soltanto uno strumento, esiste solo il contrabbasso. Tu hai partecipato a più festival in Italia, in Francia, in Svizzera, in Germania, anche in Lettonia. Ma come mai in Belgio allora? Qual è stato il filo che ti conduce poi qui a Bruxelles? Il Belgio è casuale per molti punti di vista, è stato un approdo. Io dovevo andare in Olanda e in realtà il primo anno di conservatorio l'ho fatto in Olanda, però vivevo qui in Belgio per diciamo motivi sentimentali e anche economici, perché l'Olanda costava molto più cara che Bruxelles. E quindi sono finito a Bruxelles per caso, poi è finito il conservatorio in Olanda perché mi ha cacciato semplicemente e quindi mi sono iscritto qui fondamentalmente. Tu infatti eri al conservatorio reale dell'AIA. All'AIA, al Koninklijk. Effettivamente sì, è una città abbastanza interessante, poi sei venuto al conservatorio di Bruxelles. Esatto, non ho finito però insomma ho imparato un bel po' di cose. E hai studiato poi insomma con persone di un certo rilievo, cioè Bart De Nolf, Didi Rick Wissels, non me ne vogliate per la pronuncia, Jeroen van Herzele. Esatto. E li salutiamo tutti perché credo che siano veramente dei personaggi estremamente interessanti. Prima però di continuare con le parole, io direi di far ancora ascoltare un po' della tua musica. Allora, il prossimo non è un pezzo mio, il prossimo è fresco, esce dallo studio oggi, abbiamo appena finito di mixarlo. ed è un pezzo di un chitarrista spagnolo che si chiama Gonzalo Rodriguez, che ha fondato questo quartetto che si chiama Zola, e che è un quartetto di, ci sono due belgi, ci sono io, c'è lui, sono tutta gente che è più o meno uscita dal conservatorio. E, questo però è il tuo proprio progetto? Non è il mio progetto, è quello che abbiamo sentito prima. Il primo pezzo che abbiamo mandato, questo di ora, è il progetto di Gonzalo, ed è un progetto che si sta muovendo sempre di più in questi ultimi tempi. Insomma, dobbiamo andare a suonare a Jazz a Liege a maggio, stiamo registrando, abbiamo registrato con la Provence de Liege, che ci ha sostenuto e che ci ha offerto una registrazione gratuita negli studi della Provence, e quindi ho pensato che sarebbe stato bello sentirlo, perché è un altro tipo di musica anche. Direi di ascoltare questo brano e poi parliamo di quello che bolle in pentola. Eh sì, ecco qui Radio Alma, ne approfitto per salutare il nostro amico Stefano Baldi, che qualche anno fa aveva lanciato la trasmissione di jazz e dintorni, che continua a coltivare dalla radio dell'Università LUISS, però in streaming, quindi è una web radio, e probabilmente sarebbe una buona occasione anche per presentare la musica che stiamo ascoltando questa sera. Allora, ricordami ancora il brano, questa sera sono un po' troppo stanca, non l'ho memorizzato, quindi Nicola Lancerotti è qui con noi in studio. Nicola, ricordiamo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato? Questo appena sentito si chiama Caleo, ed è un brano di Gonzalo Rodriguez, che fatto dal quartetto Zola. Il brano che abbiamo sentito prima è un pezzo che si chiama Faking East, è un pezzo che ho scritto io per il mio quartetto, che si chiama Nicola Lancerotti Quartet, e viene da questo disco che abbiamo fatto uscire all'inizio del 2013 con l'etichetta Den Records, che è un'etichetta di Novara, di un musicista che si chiama Stefano Ferrian, che è una persona molto aperta dal punto di vista musicale, propone musiche di jazz d'avanguardia. Lui stesso è uno di questi che fa musiche abbastanza particolari, e qualcuno le definirebbe cacofoniche, ma sono piuttosto interessanti. Nella tua carriera hai avuto più esperienze, hai cominciato in Italia, poi, come ci raccontavi, ti sei trasferito in Olanda fino ad approdare a Bruxelles. Secondo te, in questi tre paesi, sebbene tu abbia avuto in tutti e tre gli stati differenti esperienze, c'è un modo diverso di fare musica, oppure tutto sommato è veramente la passione quella che accomuna poi i musicisti? Ma non proprio di fare musica, poi alla fine si fa musica. Forse qui al Nord Europa c'è un pochino più di accademismo, se vogliamo chiamarlo così, cioè essendoci molte più scuole, esiste, diciamo, una fucina di musicisti che necessariamente escono formattati. Mm-hmm. Può succedere, però esistono, c'è una grandissima quantità di musicisti fenomenali qui in Belgio, come anche in Olanda. In Italia, non essendoci mai stata mai stato spazio per l'educazione jazz, per esempio, questo è il motivo per cui io me ne sono andato, i musicisti sono stati un po' più creativi in questo senso, lavorano molto di più con i workshop, con il Siena Jazz, per esempio, con i workshop che organizza Paolo Fresu in Sardegna, e via dicendo. Quindi i musicisti sono sempre se la sono sbrigata in modo molto più intelligente anche. Quindi escono fuori anche personalità più interessanti. Poi gli italiani sono spavaldi, quindi fanno sempre sui palchi, fanno i personaggioni, quindi da questo punto di vista c'è questo modo diverso di far musica da parte magari degli italiani rispetto qui al Nord Europa. Queste sono le esperienze che ho avuto io, insomma. Diciamo però che magari il vantaggio degli italiani è che hanno una duttilità, una flessibilità, una capacità probabilmente anche di improvvisare, che però a volte può fare la differenza. Oppure credi che effettivamente sia proprio il tecnicismo a caratterizzare, soprattutto nella musica jazz, artista piuttosto che un altro? Credo che sia, sì, senz'altro, ma come dicevo, è più questo modo di sbrigarsela con quello che abbiamo che ha reso i musicisti più attenti magari a quello che ascoltavano, per esempio i dischi, a crearsi uno stile che è proprio e non è meno formattato appunto da strutture istituzionali, in questo senso sì. Ad un giovane che si avvicina oggi alla musica, considerando quello che è stato il tuo percorso, quale consiglio daresti? Beh, di farla se quanto prima, se, nel senso di non mollare, perché prima si impara, meglio è, in questo senso. La musica ti entra sotto pelle, ti entra dentro, e se cominci quando sei piccolo assimili molto di più. Io ho cominciato a 25 anni, ho fatto fatica sotto molti punti di vista, perché io ho cominciato col jazz e non con, per esempio, con il basso elettrico nei garage a fare post-punk, sbagliando tutte le note, cercando di capire come funziona. Quella scuola lì è fondamentale, quindi se cominci quando hai 12-13 anni è l'ideale, poi puoi arrivare al jazz, puoi arrivare alla musica classica, quindi di farlo il più possibile, di prendersi uno strumento. Anche Charlie Parker suonava col sax di plastica, anche Ornette Coleman suonava col sax di plastica, quindi prendere quello strumento lì, ed erano mostruosi tutti e due, ok, stiamo parlando di mostri, Ornette è ancora vivo, quindi e di farlo il prima possibile, secondo me. Questo è il mio consiglio personale. Poi, beh, quello poi è anche frutto, insomma, della tua esperienza. Mi raccontavi prima, a microfoni spenti, che comunque sei in giro per più concerti in Italia, in Belgio e in zone limitrofe. C'è qualche evento nell'immediato che, di cui già possiamo annunciare ai nostri ascoltatori? Sì, un pacco. Dunque, 5 aprile al Centro Culturale di Amé, vicino a Liegi, con un progetto di tributo a Kind of Blue. A che ora, ti ricordi? Ora da Centro Culturale, quindi 8 e mezza, 9, credo, non so, io devo andare via alle 5, credo, quindi non so a che ora sono. Poi, quindi 5 aprile. 5 aprile. Quindi sì, siamo ancora in questa settimana e credo che sia sabato il 5, giusto? Sabato, sì, 5 aprile. Sabato 5 aprile. Poi c'è l'inizio della, cioè c'è una tournée con questa cantante che sentiremo tra poco, folk inglese, che si chiama Kirsty McGee, che è straordinaria, ed è un'amica con cui devo suonare, con cui ho fatto una serata, ma con cui devo suonare già da molto tempo, e con cui finalmente riusciamo a fare qualche data insieme. Suoniamo il 17 aprile al Dairyman qui a Bruxelles, ma facciamo date dal 12 al 27 di aprile tra Olanda, Belgio e Inghilterra. E poi ci sono le date di giugno del mio quartetto. Qui a Bruxelles o altrove? L'11 al Bravo Caffè in centro, il 12 al Sounds e il 13 al Jacques Pelzer a Liegi. Quindi il 12 giugno, tra l'altro, al Sounds, che è a Rue de la Tulipe a Bruxelles, che poi è il tempio sacro del jazz. A Bruxelles, sì, è uno delle istituzioni. A Bruxelles, ecco, quindi quello è sicuramente uno dei luoghi più magici per quelli che amano il jazz. Direi, prima di salutarci, di ascoltare il brano di cui parlavi poc'anzi. Cari amiche e cari amici, Radio Alma, Bruxellando, siamo in compagnia di Nicola Lancerotti. Nicola, prima ci raccontavi un po' di come è evoluta la tua passione per la musica, quindi mi viene spontaneo chiederti come è cambiata invece la musica jazz e anche il modo di fare musica negli anni, un po' grazie alle tecnologie, un po' grazie al digitale. Beh, la musica è cambiata necessariamente da secondo alcuni punti di vista è meglio, perché si è aperta negli anni. Negli anni 70 c'è stata la grande rivoluzione del free, poi si è richiusa ed è arrivata la fusion negli anni 80, quindi è molto evoluta, e in questo momento ha una specie di ibrido strano che comunque è abbastanza interessante. Quello che magari è meno interessante, come dicevo prima, è che appunto i musicisti, magari essendoci scuole di jazz ovunque nel mondo, studiano il jazz non come lo veniva studiato negli anni 40, negli anni 50, sul campo, con i musicisti, ascoltando i dischi e vi dicendo. Vengono studiati quelli che si chiamano i pattern, vengono studiate le scale, vengono studiate, è tutto molto, molto schematizzato, insomma. Quindi da questo punto di vista è più difficile, secondo me, trovare dei musicisti interessanti, veramente interessanti, e che abbiano, per esempio, un suono particolare. Questo va anche con gli strumenti. Moltissimi strumenti a fiato ora sono standardizzati, quindi sono fatti a macchina. Erano già fatti a macchina, ma adesso sono molto più incanalati in un processo a catena, per cui sono tutti uguali gli strumenti. Alcuni tipi di strumenti sono tutti uguali, e quindi se è più difficile trovare un suono particolare di un particolare sassofonista, insomma, i musicisti sono un po' più noiosi negli ultimi anni, secondo me. Quindi anche da questo punto di vista c'è una forma di globalizzazione in atto. Assolutamente, assolutamente. Nicola, c'è qualcosa che vorresti ancora raccontarci che non ti ho chiesto? Non lo so, no. Allora, io ricorderei quindi che giovedì 17 aprile sarai in concerto. Sì. Ricordiamo dove? Al Daring Man a Bruxelles, Rue de Flandre. In orario da concerto, in orario da in orario compreso tra le 18 e le 22, non lo so esattamente. Non vi preoccupate, ci saranno più informazioni, orari e dettagli sul blog, anzi, che non è più un blog, sul sito di Radio Alma, quindi radioalma.eu/brussellando. Io ringrazio Nicola per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a te, è stato un piacere. Abbiamo parlato di musica e sono contenta perché. Insomma, riusciamo a mantenere anche questo appuntamento su temi che sono un po' diversi di quelli che affronta Brussellando. Nicola, noi ti auguriamo veramente tutto il meglio. Grazie mille. E io direi che, se sei d'accordo, ci invii la lista dei concerti così che possiamo poi, assolutamente. Beh, poi c'è, collegarli c'è al mio blog. C'è ricordiamolo Facebook. Magari. Quindi, allora, io avevo un indirizzo, vediamo se è ancora quello giusto. Sì, Maridì, abbiamo sul nostro account Twitter, abbiamo messo... i link alle pagine Facebook e al sito. Fantastico. Magari se hai un account Twitter, se vuoi retweetare. No, non ce l'ho. mi sto Facebookando da poco, quindi. Vedi, noi non abbiamo Facebook e abbiamo Twitter, tu hai Facebook e noi non abbiamo Twitter. Ah, vedi. Noi non ce l'abbiamo ancora a Facebook, arriverà in un futuro, dai. Beh, diciamo che date le nostre trasmissioni, l'account Twitter è probabilmente un po' più semplice anche da usare. Daniele, andiamo ancora con una canzone? Daniele mi suggerisce di andare con Librangolo, quindi io ringrazio Nicola, saluto anche Valentina Cagni che ci ha permesso di conoscere la musica di Nicola e io direi che questa sera posso farla io la sigla? Vai. Anche se abbiamo un musicista in studio, però no. Allora, direi di fare un'altra cosa in diretta, visto che siamo in diretta e la diretta funziona sempre. Devi sapere che la nostra Fiordaliso cura una rubrica dedicata alla letteratura chiamata Librangolo. Non ha una sigla sua, un po' perché abbiamo vari problemi, diciamo, di proposte musicali. Quindi inventa tu una musica con la quale potremmo introdurre il Librangolo. Devi solo dire il Librangolo in una maniera diversa dalle mille volte che l'abbiamo detta precedentemente. Ma tu non le sai, quindi... Con la musichetta. Come vuoi, ma anche... Sì. Librangolo. Bravo! Ma fantastico, cioè proprio davvero siamo usciti dai soliti. È un canone inverso. Grazie. Ecco, quindi stasera non rimaniamo in tema, anche se mi dispiace perché comunque a me piace un sacco la musica, mi sarebbe piaciuto tanto intuire che cosa ci sarebbe stato stasera e di venire con dei libri che hanno al centro la musica o dei musicisti, perché comunque sarebbe bello rimanere in tema, però usciamo completamente di tema, andiamo in Irlanda. E andiamo in Irlanda, nell'Irlanda del periodo immediatamente dopo l'acquisizione dell'indipendenza dell'Irlanda, quindi un periodo molto cupo, molto buio per la storia del paese, soprattutto per causa della immensa povertà che ha praticamente messo il paese in ginocchia. Ed è proprio in questo periodo che ci viene raccontato da Frank McCourt in Le ceneri di Angela. Vedo che si conosce qua. Sì, sì. Bene. E qua anzi si ama, Angela, se capisco, sì, bene. Sì. E effettivamente anch'io non posso dirvelo diversamente, posso soltanto dirvi che vi raccomando calorosamente di leggerlo. E di magari dirvi che cosa è piaciuto a me personalmente in questo libro. Cioè, una delle cose che mi è piaciuto tanto è proprio questo sguardo da bambino, perché i bambini non è che giudicano necessariamente quando vivono anche delle situazioni molto estreme, o non sentono il peso di queste situazioni nello stesso modo in cui lo sentono i grandi, lo sentono in modo completamente diverso. certe cose si accettano in modo quasi naturale, delle cose che con una mente da adulto sono inaccettabili, orrendi, insopportabili. E mentre i grandi della storia si intuisce che vengano schiacciati dalle situazioni che vivono, i bambini in qualche modo riescono anche a fiorire, non soltanto a sopravvivere. E comunque le situazioni che sono descritte non perdono niente della loro drammaticità, diciamo. Cioè questi cioè il pane fritto ogni giorno, a quando c'è? quel sentimento di non so, di squallido, di buio che trasmettono anche le descrizioni molto semplici, a volte ripetitive, comunque fanno sentire in modo molto, molto sulla pelle quella situazione estrema. Quando andare in ospedale è praticamente la festa, e dobbiamo anche pensarci un attimino. Allora, questa era comunque una delle cose che era molto bello nel libro. L'altro è comunque conoscere un periodo della storia irlandese che noi non ci associamo più alla Irlanda. Cioè questo ci fa capire di quanto velocemente cambino le cose ultimamente, perché le storie che sono raccontate non sono molto lontane. Se consideriamo, è praticamente oltre l'angolo, e le associazioni, diciamo l'immagine, ma non soltanto, cioè non è che io vorrei che l'Irlanda sia associata come immagine alla povertà, è piuttosto questo cambiamento immenso che si riesce ad avere entro un tempo relativamente breve, e che io trovo un po' scioccante a volte, cioè essere confrontati, magari lo trovo scioccante anche perché anch'io vengo da una realtà simile, dal punto di vista che ho vissuto, diciamo, in un paese comunista molto chiuso, e capisco la differenza immensa fra quello che vivevo da bambino e quello che dopo ho vissuto, ed anch'io dico che la mia storia è oltre l'angolo ed è incredibilmente lontana, è come se fosse stata in un altro secolo, ed è in un certo senso è questo stesso sentimento che mi trasmette il libro di Frank McCourt. Un'altra cosa è ovviamente la speranza, cioè Frank, il protagonista, se stesso, è decisamente un lottatore, uno che si fissa un obiettivo, che non si lascia vincere da niente, ma non in modo non scrupoloso, cioè senza scrupoli, è in un modo naturale quasi, cioè come se questo fosse davvero il suo essere, la sua fibra, quello di non lasciarsi andare, ed è questo che alla fine lo riporta in America, da dove la famiglia, con una decisione non molto saggia, ha cominciato la sua storia. E probabilmente non ce lo racconta, ma intuiamo che arriva a diventare lo scrittore che alla fine ci presenta questo libro. Quindi che sorpresa, ho ancora del tempo, no. Volendo sì. Beh, allora vi posso anche raccontare diciamo lo strano effetto che fa comunque la religione in tutta la storia, cioè il fatto del comunque questo stampo cattolico che è molto forte o era molto forte nell'Irlanda del periodo, e che cioè un bambino lo vive con la sincerità del suo essere, cioè ci crede a tutto praticamente che gli dicono, questo senso di colpa che pervade qualsiasi cosa che uno dice, sì certo, cioè, hai questo solo piacere, vai, ti prego, vai, dai, e tutto attorno invece dà questo messaggio di no, non puoi, è un peccato mortale, preferibilmente mortale, e quindi devo dire che comunque posso solo celebrare l'allontanamento di un tale, diciamo, livello di religiosità, perché perché comunque è abbastanza dura, cioè su tutto, sulla povertà, sulle malattie, sulle difficoltà familiari, sul padre che beve, la madre che non so, che non, praticamente non sa come far andare avanti la famiglia, avere anche un altro strato di miseria, proprio non manca nessuno. Comunque è un libro bellissimo, cioè presentato davvero in un tono che è quasi leggero, quindi non aspettarvi di trovarvi schiacciati mentre leggete il libro, vi troverete piuttosto a volte anche a sorridere sulle vicende presentate e di vivere con, cioè di sentire insieme al personaggio le varie vicende. Quindi ve lo raccomando calorosamente, buona lettura e alla prossima settimana. Noi ti ringraziamo, Fiordaliso, come al solito i tuoi suggerimenti di lettura veramente sono sempre veramente appropriati, quindi, e soprattutto poi Le cene di Angelo ho letto un po' di anni fa, quindi sarebbe anche simpatico rileggerlo. Allora, non abbiamo un'agenda molto ricca di eventi, ma siamo anche in conclusione, però ne approfitto per salutare gli amici di Sua Belge e Tetua, questo spettacolo veramente divertente dedicato alla politica belga, con un profumo di elezioni, perché quest'anno, anzi tra un mese, si voterà, tra qualche settimana in Belgio si rinnoveranno più di un'istituzione, quindi il popolo belga sarà chiamato ad esprimersi per più di una volta. Quindi salutiamo Sua Belge e Tetua, perché per quanti non ne sapessero, e questo è un invito soprattutto agli expat, è un modo veramente simpatico ed esilarante. Penso che la capacità di divertimento e di autoironia che si ritrova in questo spettacolo ora si ritrova difficilmente in altri. Vi ricordo invece una mostra che celebra uno dei fotografi più noti in Francia. Pensate, ha collaborato con Elle, Maison de Marie Claire, Geo, Life, Weekend Telegraph. Mi riferisco a Jean Munich, il quale espone diverse fotografie, sono davvero tante, presso la sede dell'Alliance Française, quindi Galerie de l'Alliance Française, Avenue des Arts 46, 1000 Bruxelles. Il tema è quello dell'Europa. Infine, un evento di cui ho appreso proprio in diretta la notizia, sarà a Bruxelles il prossimo 10 aprile, presso l'Istituto Italiano di Cultura, Baricco, il quale ci racconterà di quella che è la sua esperienza sulla scuola di scrittura, scuola Holden. Quindi l'iscrizione tra l'altro è obbligatoria, perché l'evento è gratuito, quindi per quanti volessero saperne di più ci sarà più informazioni sul sito di Radio Alma e di Bruxellando. Ringrazio Dani M in regia. Grazie, buonasera a tutti. Dovete sapere che quando vuole è molto cattivo. Saluto la nostra Fiordaliso. Buonasera. Saluto ancora Nicola e Valentina, che sono rimasti con noi fino alla chiusura. Buonasera. Saluto il nostro George, che spero di rivedere la settimana prossima. Io auguro a tutti voi un'ottima settimana. Tra l'altro la giornata di oggi era veramente eccezionale, e questo, una volta tanto, non era uno scherzo d'aprile. E noi ringraziamo Mary D. Ciao.